Pronto? Ciao, sono Boisca. La mia storia in Havana inizia nel 2012. Inizia quando inizia la terza generazione di Havana, perché Havana infatti ormai non c'era più. E in effetti a Roma in generale non c'erano più A Club, perché anche il Bugs Lab era ormai andato. C'era l'Acme Meeting all'Aquila quell'anno e noi gli stavamo un sacco dietro. Eravamo un piccolo gruppetto, principalmente di Roma, un po' di gente di fuori Roma, qualcuno dell'Aquila. Iniziamo a fare iniziative, facevamo avanti e indietro in continuazione dall'Aquila. Avevamo abbastanza progetti per la testa e per la verità di quei progetti ben poco è andato avanti. Però quel poco che è andato avanti è stato proprio quel gruppo che si è coeso e mentre preparava l'ACME Meeting alcuni individualmente hanno iniziato a ripulire una stanzetta al forte, la stanzetta che era sempre stata la stanzetta di Havana. E la cosa per me andrà più o meno così. Vincent a un certo punto mi dice: "Guarda, io e Red abbiamo sistemato la stanzetta di Havana, ma ci va di sistemarla, smanettare, lì ci mettiamo un po' di server." E io ho detto: "No, guarda, io però l'A Club non lo voglio fare, gli A Club sono finiti, i corsi a me mi annoiano." "No, no, ma che hai capito? Ma smanettiamo, portiamo avanti i progetti che ci pare, che ci frega dei corsi." E va bene, allora subito. In realtà poi la prima riunione arrivò parecchio tempo dopo, perché prima c'era l'ACME Meeting all'Aquila e noi non ce la facevamo a fare tutte quelle cose. Dopo l'ACME Meeting dell'Aquila abbiamo fatto la prima riunione e si intuiva il cambio di passo con la vecchia storia. Dicevamo che non volevamo insegnare nulla, che non volevamo fare corsi, addirittura che i computer era meglio buttarli, visto che tanto spesso venivano usati male. Noi non avevamo un piano preciso. Però eravamo un gruppo piuttosto chiuso e che voleva andare avanti per fatti suoi a fare ricerca sui temi che gli interessavano. E dopo un po' fu la repressione a porgerci un piano sulle prossime cose da fare, perché si susseguirono parecchi arresti intorno a noi, tutti quanti arresti ai compagni, arresti no TAV, molte inchieste, adesso nemmeno ricordo più i dettagli. E in tanti casi vedevamo un certo accanimento nell'utilizzo di materiale informatico, computer sequestrati, prove in processo basate su dei blog, cose così. Allora ci siamo messi a scrivere un piccolo vademecum di autodifesa, erano proprio 3 righe. E poi sono seguiti incontri con gli avvocati e poi alcuni piccoli strumenti per aiutare chi voleva imparare ad usare sistemi più sicuri. Quegli strumenti sono poi diventati quella che adesso è Fripto, quel piccolo vademecum è diventato Cryptor DAI, insomma, si è formato Havana, grosso modo, per come è adesso.